Brutto giorno di Simone Spezia. In Turchia prosegue l'ondata di arresti. Un terzo dei generali è in manette, mentre Erdogan evoca la pena di morte, sospesi 8.000 agenti. E la Germania replica: se viene instaurata la pena di morte, stoppa al negoziato con l'Unione Europea per l'adesione. A Nizza mancano ancora notizie su alcuni italiani, non si sa se 5 o 6, mentre si cercano i collegamenti dell'attentatore con lo jihadismo internazionale. Lo scontro tra treni in Puglia al via agli interrogatori degli indagati, ma hanno messo un registro cartaceo della stazione di Andria. RCS oggi l'aumento di capitale di Cairo dopo la vittoria per la conquista del Corriere della Sera, fusione con Cairo Communications entro 12-24 mesi. Il disabile picchiato in Sardegna, si invocano nuove leggi e pene più dure, fare subito giustizia, dice il ministro Boschi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, nel quale vi diamo anche qualche anticipazione sulla trasmissione che ci sarà poi successivamente. In apertura dunque ci occupiamo di Turchia, molte le pagine aperte da questo punto di vista, quelle dei rapporti internazionali della Turchia, oltre che ovviamente le questioni più prettamente interne. Iniziamo da queste e dalla cronaca, da Istanbul Marco Barbonaglia, buongiorno. Buongiorno, sì, la Turchia tenta di tornare alla normalità e apparentemente la vita è tornata a scorrere in maniera piuttosto normale. Certo, la città è semideserta rispetto a come siamo sempre stati abituati a vederla, tuttavia la situazione non è normale e non è del tutto stabilizzata, se è vero che ieri sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco vicino all'aeroporto di Sabiha Gökçen nella parte asiatica, poi degli scontri ci sono stati nella base militare Konya, soprattutto che questa mattina ancora un uomo armato e a quanto pare in divisa ha aperto il fuoco davanti al tribunale di Ankara, dove stavano testimoniando 27 generali e ammiragli golpisti, tra i quali Öztürk, ritenuto uno degli strateghi del golpe. Sul luogo sono intervenute le forze speciali, almeno un carro armato. Ora, secondo l'Hürriyet, l'uomo è stato arrestato, secondo altre fonti è stato ucciso. Comunque questa è una prova del fatto, se ci voleva un'ennesima prova del fatto, che la situazione non è del tutto tranquilla. Erdogan continua a dire al popolo di rimanere in piazza per vegliare contro altre azioni dei golpisti, mentre ha ordinato agli F-16 di pattugliare i cieli. Gli F-16, ricordiamo, sono stati proprio quegli stessi aerei che nella notte tra venerdì e sabato hanno terrorizzato milioni di turchi come colonna sonora di questo tentato golpe per tutta la notte. E naturalmente in questo momento arrivano gli arresti, siamo a 6.000 persone arrestate tra magistrati, oltre 6.000 in realtà, e militari, e oggi anche quasi 9.000 ufficiali tra polizia, ufficiali di polizia, governatori, ufficiali della gendarmeria, un corpo simile ai nostri carabinieri, quindi militare ma con funzioni di polizia, sono stati rimossi dai loro incarichi, quindi hanno dovuto restituire le armi e sono stati rimossi appunto in attesa di probabilmente azioni giudiziarie anche nei loro confronti. Allora Marco, io intanto ti ringrazio per questo aggiornamento da Istanbul, tra un attimo andremo alle reazioni internazionali che oggi sono particolarmente importanti, ma prima sentiamo l'analisi di Alberto Negri. Il controgolpe di Erdogan inizia con un paradosso: dallo scampato pericolo di una dittatura militare si passa alla fase di una sorta di dittatura elettorale, ovvero un regolamento di conti che sta cambiando il volto dello Stato turco. 6.000 militari arrestati, silurati 8.000 poliziotti, licenziati 30 governatori, rimossi 2.800 giudici, in pratica un terzo di tutta la magistratura del paese è entrata nel mirino delle purghe dirette dal presidente, dai servizi segreti del fedelissimo Canfidan e da un partito che in maggioranza da 14 anni, l'HPP, ha l'imperdibile occasione di prendere in mano, oltre alle leve della politica e del governo centrale, anche quella di tutta l'amministrazione. Erdogan ha accusato il suo ex alleato Fethullah Gülen di aver costituito uno Stato parallelo, infiltrando tutti i gangli dello Stato, e ne reclama l'estradizione agli Stati Uniti, ma lo stesso presidente, con il fallito colpo di Stato di venerdì scorso, sta trasformando la Turchia in uno Stato Erdogan. È questa situazione, peraltro prevedibile, che ha fatto avanzare l'ipotesi dell'autogolpe. In realtà, dalla notizia di questo colpo di Stato emerge soltanto una certezza: un'altra Turchia sta per sorgere con un Erdogan più forte e una democrazia sempre più debole. Questa dunque è l'analisi di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore ad Istanbul. Come si diceva, giornata molto importante dal punto di vista delle reazioni internazionali a quello che sta avvenendo in queste ore. Ci colleghiamo con Anna Marino per fare un punto. Anna, eccoci. Sì, buongiorno a tutti. Dopo il fallito golpe in Turchia, come dicevi, timori e moniti si fanno più pesanti, non solo tra Ankara ed Europa, ma anche con gli Stati Uniti. Alto là della Germania, come dicevi, sulla reintroduzione della pena di morte in Turchia, che bloccherebbe il negoziato per l'adesione di Ankara, appunto, all'Unione Europea. Il portavoce della cancelliera tedesca Merkel, Stephen Siebert, ha definito preoccupanti le affermazioni del presidente Erdogan. E la situazione, appunto, è tra i temi, oltre al terrorismo, all'attacco a Nizza, sul tavolo del Consiglio degli affari esteri odierno a Bruxelles, presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, che fa eco alla Germania, avverte: nessuna scusa, nessun paese può diventare membro dell'Unione Europea se introduce la pena di morte. La Turchia sottolinea se fa parte del Consiglio d'Europa in quanto tale legata alla Convenzione sui diritti umani. E annuncia: i ministri degli esteri europei oggi lanceranno un forte messaggio sul fatto che il rispetto dello Stato di diritto e il sistema di divisione dei poteri deve essere protetto. Sempre a Bruxelles, dopo la colazione di lavoro con John Kerry, prima partecipazione di un segretario di Stato americano ai lavori dei ministri dell'Unione Europea, nella dichiarazione congiunta che è seguita si è sottolineato che gli Stati Uniti e l'Europa sono uniti nel chiedere alla Turchia di rispettare la democrazia, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto nella risposta al tentativo di golpe. Sentiamo Kerry. We also firmly urge the government of Turkey. Oltre alla condanna del golpe c'è un richiamo alla democrazia di Kerry e l'annuncio che la NATO valuterà molto attentamente cosa sta succedendo in Turchia. E prima volta anche per il neo ministro degli esteri della Gran Bretagna Boris Johnson, che aveva espresso la sua solidarietà al governo turco dopo lo sventato colpo militare, ma si fa più cauto. Sentiamo. Alla condanna, aggiunge, è importante anche affiancare l'equilibrio e il controllo nella regione. E poi si pronuncia anche il ministro degli esteri francese Jean-Marc Ayrault, dice: La Francia anche qui ha condannato il golpe, ma allo stesso tempo dobbiamo vigilare perché le autorità turche non mettano in piedi sistemi non democratici dopo i progressi fatti finora. E infine il ministro degli esteri russo Lavrov: per quanto riguarda l'evoluzione attuale della situazione in Turchia, qui vale a pieno titolo la nostra posizione sulla necessità di risolvere tutte le questioni esclusivamente in chiave costituzionale. E per ora è tutto. E ti ringrazio, grazie Anna Marino per il punto sulle reazioni internazionali. Noi adesso ci trasferiamo a Nizza, dove oggi ci sono stati fischi per il premier francese Manuel Valls all'arrivo sotto il monumento del centenario, dove c'è stata la manifestazione in memoria delle vittime dell'attentato di giovedì scorso. Intanto proseguono da una parte le indagini sui collegamenti con lo jihadismo della persona che con un camion si è lanciata sulla folla che sta festeggiando il 14 di luglio, e dall'altra parte le ricerche degli italiani dispersi. La nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì, Simone, buongiorno. E altri punti di Nizza, appunto, dove si respira una tensione crescente, oltre a quella di cui parlavi poco fa, anche se una tensione diversa, sono gli ospedali della città e i centri di assistenza per i familiari delle vittime e dei dispersi. Ad oltre 4 giorni dalla strage, infatti, sono ancora molte le persone che mancano all'appello, e di 84 corpi senza vita, solo 34 hanno un nome, stando al quadro diffuso dal Ministero della Salute. Così l'attesa diventa sempre più angoscia per chi cerca notizie dei propri cari, compresi i 5 o forse 6 italiani. I volti di chi manca all'appello li rivedi dappertutto, in giro per Nizza, sugli autobus, sui lampioni, e i loro familiari si sono sottoposti pure all'esame del DNA, di cui oggi dovrebbero arrivare i risultati. Così anche questa tensione si aggiunge alle polemiche sulla sicurezza per l'ennesimo attentato che colpisce la Francia. Sul fronte delle indagini invece si ricostruiscono le fasi della radicalizzazione di Mohamed Bulel, i passaggi che l'avrebbero portato in contatto con uomini pare pure del califfato, una rete che si sta componendo anche grazie ai suoi contatti trovati sul cellulare, quelli che l'avrebbero aiutato a procurarsi le armi, una pistola, ma ci sarebbe anche qualcun altro che l'avrebbe appoggiato nella preparazione di una strage iniziata a ordirsi settimane prima. Tutto sarebbe avvenuto in poche settimane dal momento in cui l'uomo avrebbe anche iniziato a farsi crescere la barba, come appunto gli estremisti islamici. Se non era mai religioso, ha invece però confermato agli inquirenti l'ex moglie, non era mai stato religioso, ha confermato agli inquirenti l'ex moglie scarcerata ieri, che però ha detto di non sapere nulla più della sua radicalizzazione, se a parte la sua violenza. Quella donna comunque ha deciso di voler raccontare la sua versione domani alla stampa, e per ora è tutto. E ti ringrazio, grazie dunque alla nostra Raffaella Calandra per l'aggiornamento da Nizza. Ci spostiamo alle indagini sullo scontro tra treni in Puglia, oggi giorno di interrogatori. Fabrizia Ralla, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. In corso l'interrogatorio di Vito Piccarreta, il capostazione di Andria, indagato per il disastro ferroviario dello scorso 12 luglio che ha provocato 23 morti. Si è presentato intorno alle 9 in procura a Trani, davanti al pool di magistrati che segue l'inchiesta sulla tragedia avvenuta sul tratto a binario unico tra Bari e Corato. L'interrogatorio, di fatto il primo dall'avvio delle indagini, è iniziato intorno alle 11. Piccarreta, uomo chiave dell'inchiesta, che ha esibito ai magistrati un certificato medico che attesta alcune difficoltà psicofisiche legate naturalmente all'incidente, avrebbe commesso l'errore di dare il via al treno regionale in partenza da Andria, ignorando che la tratta di pertinenza fosse già impegnata da un altro convoglio proveniente da Corato. Un elemento di cui però insieme a lui non si sarebbero accorte almeno altre 4 persone in servizio. L'avvocato di Piccarreta aveva fatto sapere che l'uomo è molto turbato, ma che è deciso a collaborare con i magistrati per fare chiarezza su quanto accaduto. Le indagini e gli interrogatori riguardano soprattutto le procedure di sicurezza e l'alterazione dei registri di viaggio scoperti nella stazione di Andria. Nello specifico, l'orario di partenza del treno regionale che si è scontrato con il treno proveniente da Corato sarebbe stato modificato appena in modo evidente. E gli inquirenti allora vogliono capire se l'alterazione dei registri sia stato un tentativo di coprire l'errore che ha portato al disastro. Nell'inchiesta, che riguarda anche la gestione di fondi pubblici per ammodernare la linea Bari-Corato, Vito Piccarreta è indagato insieme ad altre 5 persone, tra cui ci sono anche 3 dirigenti di Ferrotranviaria, la società che gestisce la linea dove è avvenuto il disastro, il capotreno sopravvissuto Nicola Lorizzo e l'altro capostazione in servizio a Corato quel giorno, Alessio Porcelli, che sarà ascoltato dai magistrati a seguire. Per il momento è tutto a te. E grazie a Fabrizia Ralla per questo aggiornamento. Andiamo negli Stati Uniti. Attacks on police are an attack on all of us. Gli attacchi alla polizia sono attacchi a tutti noi e alle regole della società. Così il presidente Barack Obama condanna la sparatoria di Baton Rouge, nella quale sono stati uccisi 3 poliziotti e altri 3 agenti sono stati feriti. A sparare con un fucile d'assalto Gavin Long, un afroamericano di 29 anni di Kansas City, ex Marine, poi freddato. Di questo ovviamente torneremo a parlare oggi anche in America 24. Torniamo però all'Italia, con il giorno nel quale prende il via la giunta Raggi a Roma. Ad un mese dalle elezioni, la nuova giunta di Roma si prepara ad entrare nella piena operatività. Nel pomeriggio Virginia Raggi dovrebbe incontrare in Campidoglio il mini direttorio del Movimento 5 Stelle, orfano della deputata Roberta Lombardi, uscita di scena dopo i contrasti con la prima cittadina. Il sindaco, che oggi compie 38 anni, dovrebbe illustrare le linee guida del suo programma, che saranno anche al centro della prima riunione della giunta fissata per domani. Trasporti, rifiuti e municipalizzate sono solo alcune delle questioni sul tavolo, ma fra le priorità c'è anche l'assestamento di bilancio, che dovrà essere approvato entro il 31 luglio. Sempre oggi prendono forma anche le commissioni comunali, che eleggeranno i loro presidenti, tutti del Movimento 5 Stelle, ad eccezione di quella sulla trasparenza, che andrà al PD, principale partito di opposizione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo a Roma, dove ci sono stati parecchi problemi oggi all'aeroporto di Fiumicino, dove ci sono stati dei problemi di connettività, di fibra ottica, e quindi le operazioni di accettazione passeggeri al Terminal 3 da questa mattina alle 6 hanno subito fortissimi ritardi. E Vincenzo Loddo ha sentito il presidente dell'ENAC Vito Riggio. Purtroppo è andato in avaria uno dei sistemi di cui si avvalgono alcune compagnie aeree, ma che riguarda anche gran parte della città di Roma. Da questa notte stanno lavorando per ripristinarlo, ma ovviamente la conseguenza sull'aeroporto è che non si possono utilizzare i sistemi automatici e quindi si deve fare il check-in a mano. Questo sta determinando fortissimi ritardi, perché ci vuole molto tempo, ci sono forti code e anche qualche tentazione di cancellare dei voli. Noi finora abbiamo impedito che si cancellassero dei voli. Naturalmente però nel pomeriggio non escludiamo niente, perché se non viene riparato il guasto e non ricominciano a funzionare i sistemi automatici, questa parte non funziona. Per fortuna Alitalia ha un altro sistema, quindi al terminal 1 non risultano problemi, nel senso che lì ha continuato a funzionare. Siamo alla finanza e all'editoria con la vicenda RCS. Non ci sarà nessuna guerra per il controllo di RCS. Per Andrea Bonomi la partita è chiusa, dopo che Urbano Cairo ha raggiunto il 48,8% del capitale. La sua cordata, composta da Mediobanca, Pirelli, Unipol Sai e Della Valle, si è fermata invece al 37,7%. Entro oggi, spiega International Media Holding, restituiremo le azioni consegnate alla nostra offerta in contanti ai rispettivi titolari, che poi avranno 5 giorni di tempo, dal 22 al 28 luglio, per aderire all'OPAS concorrente, quella di Cairo. Con quei titoli, pari al 12,9% della società che edita il Corriere, il patron di La Sette arriverebbe quasi al 62%. Il primo step verso il controllo è l'ok dei soci all'aumento di capitale da 70 milioni di euro di Cairo Communication. L'operazione, ricordiamo, prevede la consegna di 0,18 azioni Cairo per ogni titolo RCS più 25 centesimi in contanti. Manca poco dunque e per Urbano Cairo inizierà l'ennesima sfida, con l'obiettivo, nel giro di 1 o 2 anni, di fondere i due gruppi editoriali. Sono pronto a prendere tutte le deleghe, dice. Voglio capire quando esce un euro, perché esce e come. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia, del quale troverete traccia anche sulla mappa, la mappa di Effetto Giorno, che trovate andando sul sito www.radio24.it. Inizieremo però in un modo particolare, lo faremo per le prossime 2 settimane, lo faremo parlando di violenza sulle donne. Radio 24 ha iniziato un viaggio su questi temi che trovate nel GR delle 7 sul nostro sito, sempre www.radio24.it, e anche qua in Effetto Giorno, declinato nel nostro modo particolare. Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato ampiamente del tentato golpe poi fallito in Turchia, dell'ondata di arresti da parte di Erdogan. Abbiamo parlato di quello che succede a Nizza, dove si indaga appunto sull'attentato che c'è stato nella sera del 14 di luglio. Abbiamo parlato delle indagini sullo scontro tra treni in Puglia. Abbiamo parlato di RCS. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo di qui alle prossime 2 settimane in una maniera particolare. Che cosa succede? Succede che Radio 24 ha dato il via ad un viaggio dedicato alla violenza sulle donne, contro la violenza sulle donne, un viaggio che vi racconterà vari aspetti di quello che avviene, dall'assistenza ai numeri veri e propri. Lo faremo e lo faremo nel GR delle 7 qua in Effetto Giorno. Trovate poi tutti i dettagli sul nostro sito www.radio24.it. E noi qua ad Effetto Giorno lo declineremo nel nostro modo particolare, ossia nel nostro giro per l'Italia. Ci sono molte storie che spesso passano sotto silenzio, che noi vediamo nel nostro scandagliare nei giornali locali e che non emergono. Ebbene, ogni giorno ve ne daremo una rassegna. Radio 24, dalla parte delle donne. A Massa, in Toscana, davanti alla stazione, ieri un uomo ha picchiato la moglie, a quanto pare dopo uno scatto di gelosia. La donna, ferita al volto, ha avuto 30 giorni di prognosi. A Cuneo, un uomo di 50 anni è stato denunciato per aver picchiato ripetutamente la moglie negli ultimi mesi. Il motivo che si era dato l'uomo: gli incassi del negozio che la moglie gestiva erano troppo bassi. Lei andava in ospedale, ma i medici non diceva niente. Ed è stato solo denunciato. A Villa Grazia di Carini, nel palermitano, invece, la 70enne Maria Licari è stata uccisa dal marito di 80 anni. Lui l'ha picchiata regolarmente per anni e lei non ha detto nulla. L'altro ieri l'ha colpita con un soprammobile sulla fronte più volte, finché lei non è morta. Poi ha pulito il sangue ed è andato a fare una passeggiata. Alle 14 è rientrato in casa e ha chiamato il 118. A Torre Annunziata, nel napoletano, un uomo ha picchiato la moglie e lo faceva regolarmente anche coi figli. Lei si voleva separare, lui l'ha picchiata forte tanto da mandarla in ospedale. La sera dopo è tornato, ha tentato di sfondare la porta, l'ha minacciata di morte, è stato arrestato. Infine, all'Aveno Mombello, in provincia di Varese. Un uomo di 45 anni, di nome Roberto Scapola, ha litigato con la moglie mentre caricavano la macchina per la partenza per le vacanze. Ha preso un martello, l'ha colpita 3 volte e poi l'ha strangolata. La donna è morta. E adesso proseguiamo il nostro giro per l'Italia con le altre notizie. E iniziamo da una vicenda della quale vi ha già parlato il nostro Gianluca Nicoletti, la vicenda del ragazzo disabile picchiato appunto a San Teodoro in Sardegna. L'audio è questo. Io non la vado, ti ammazzo! A capi! La smetti! Ma chi c'ha? Boh. E bommi. Ma chi zio? E bommi. Ed è l'audio di un video francamente veramente terribile, di un ragazzo appunto a San Teodoro che fuori da un locale viene picchiato. Ha fatto il giro della rete nel fine settimana, è intervenuto anche il governo, il ministro Boschi ha detto che ci vuole giustizia, poi questa persona si è anche scusata su internet, scusata per modo di dire, ha detto: come pubblicamente è stato il male sarà anche il bene, perciò chiedo scusa al ragazzo cui ho fatto del male, sottolineo non è un invalido e che l'accaduto non è privo di motivazioni, seppur ugualmente ingiustificabile. Siamo con Settimo Nizzi, che è il sindaco di Olbia. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Lei conosce il ragazzo che è stato picchiato? Sì, lo conosco, un bravissimo ragazzo, un ragazzo con problemi, ma un ragazzo che non farebbe male ad una mosca, assolutamente. Timido, che si comporta sempre senza dar fastidio a nessuno. Che tipo di disabilità? Io faccio il medico e non posso darle queste notizie. Lo conosce perché è un suo paziente, in sostanza? Lo conosco, assolutamente. Lo conosce, ho capito. Però ha una disabilità importante, certamente. Ha una disabilità importante. Guardi, no, non ci interessa sapere il dettaglio, capire appunto, se è una disabilità cognitiva, sì. o una disabilità cognitiva. Non le posso dare neanche... Non le posso dare queste. Non mi può dare nemmeno queste. Le dico soltanto quello che le ho detto. Che è un bravo, che è un bravo ragazzo, molto. E che è affetto da disabilità. E che è affetto da disabilità. Senta una cosa, come quando ha visto quel video, che cosa ha sentito? Ho sentito naturalmente tanta rabbia, perché non può essere un ragazzo così dolce, così bravo, aggredito brutalmente da chi vuol far prevalere non tanto le proprie ragioni. Non so se questo ragazzo che è andato a picchiare Luca fosse in preda ad alcol o quant'altro. Certo che è grave che un gruppo abbastanza nutrito di persone che stavano lì vicine hanno permesso a questo ragazzo di fare un'azione così grave. Ecco, infatti sindaco, devo dire la verità, al di là dell'atto violento, che è terribile in sé, e le immagini, lo ripeto, son veramente terribili, colpiscono veramente anche persone come noi giornalisti, che tutto sommato a queste cose siamo abbastanza abituati, c'è il fatto di tutto questo contorno di persone, c'è una ragazza che urla smettila, ma al di là di quello c'è uno che fa una ripresa, tanta altra gente intorno, e non succede niente. La cosa grave è questa, che chi era all'intorno non sia intervenuto a far cessare l'azione violenta di questo energumeno, di questa persona spinta dalla rabbia, non so da cosa. Io spero che venga data una pena esemplare a chi ha commesso questo atto, perché qui non si può più permettere che nelle discoteche si va per divertirsi. Si va per stare tranquilli, in compagnia, con amici, si può urlare, ballare, si può fare ciò che si è, ma le mani non vanno mai usate. E soprattutto il fatto di voler ancora una volta far prevalere la valentia, che in Sardegna è una cosa ben chiara, rispetto a quelle che devono essere i comportamenti. Che vuol dire sindaco? Perché qua ci ascoltano da tutta Italia. Valentia è un comportamento fatto dal far prevalere la propria forza, la propria personalità con atti violenti. Qua qualche ascoltatore ci chiede se il comune si costituirà parte civile. Io ci sto adesso con l'ufficio legale, lo stiamo vedendo. Io penso proprio, se fosse possibile, lo farò sicuramente, perché o si danno o si prendono posizioni importanti, oppure qui i ragazzi, piuttosto che andare e continuare ad andare a divertirsi, e pensano che ci si debba recare in discoteca e poi eventualmente o sotto il fumo dell'alcol o di qualcos'altro magari si possa impunemente fare ciò che si vuole, anche dal punto di vista del comportamento violento nei confronti di altre persone, e poi passarle magari così, senza poter essere perseguiti, e perseguiti in maniera anche severa dalla legge. Lei ha sentito la famiglia, immagino, sindaco, no? Essendo... Io conosco molto bene la famiglia, cerco di tenere anche il fatto per quanto possibile. Per fortuna ci sono i mezzi di comunicazione, così, se ci sono i social oggi che ha torto, ha ragione, ci danno la possibilità di venire a conoscenza di fatti così gravi, altrimenti non l'avremmo mai saputo. Però continuare a dare magari il nostro supporto morale al ragazzo sicuramente. La ringrazio, grazie a Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, buon lavoro a lei. Noi adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire che cosa succede sui mercati e poi faremo come sempre a quest'ora un riassunto delle notizie con i nostri titoli. Poi nella seconda parte della trasmissione torneremo al nostro giro per l'Italia e proseguiremo su un tema che stiamo trattando quasi tutti i giorni, che è la gestione dei migranti, dei richiedenti asilo, dei profughi che arrivano qua in Italia. E come vi ripeto, non ce ne stiamo occupando da un punto di vista strettamente politico, ma dal punto di vista pratico, di quello che succede ai comuni che si trovano impegnati a gestire tutto questo sotto vari aspetti, compreso l'ordine pubblico. Andremo oggi a Palermo. Palermo ha un grosso problema per quanto riguarda i minori non accompagnati, perché che cosa succede? Mentre maggiorenni vengono distribuiti nel territorio, per quanto male, come abbiamo sentito nelle settimane scorse, per quanto riguarda i minorenni se ne deve far carico non il Ministero dell'Interno ma il Comune. A Palermo ne sono arrivati più di 1000 e non sanno più dove metterli. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. In Turchia prosegue l'ondata di arresti e di sospensioni dalle funzioni. Un terzo dei generali è in manette, mentre Erdogan evoca la pena di morte. Sono stati sospesi 8.000 agenti ed è notizia di pochi istanti fa che sono stati sospesi anche 1.500 dipendenti del Ministero delle Finanze. Le reazioni internazionali iniziano a diventare piuttosto dure. La Germania dice se viene instaurata la pena di morte stoppa il negoziato per l'adesione all'Unione Europea, posizione confermata dall'alto rappresentante Federica Mogherini. A Nizza mancano ancora notizie su alcuni italiani, non si sa quanti, forse 5, forse 6, mentre si cercano i collegamenti dell'attentatore con lo jihadismo internazionale. Mentre è stato fischiato, il premier francese valsa la cerimonia in memoria delle vittime. Lo scontro tra treni in Puglia al via gli interrogatori degli indagati, ma hanno messo un registro cartaceo della stazione di Andria. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Prima di andare al nostro prossimo argomento, al prossimo punto sulla mappa nel nostro giro per l'Italia, e lo metteremo a Palermo, una risposta ad un ascoltatore che durante l'intervista al sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha scritto: ma perché vi accanite sul grado di disabilità della persona che è stata picchiata? Non è un accanimento, è semplicemente che la persona che l'ha picchiata ha detto: attenzione, questo non è un invalido, non è un disabile. E abbiamo parlato col sindaco proprio perché conosceva questa persona e per avere qualche dettaglio in più su questo tema. Chiudiamo il capitolo e passiamo appunto a Palermo, prossimo punto sulla mappa, per tornare su un tema che stiamo affrontando molto in queste ore. Siamo stati in Veneto, in due paesi dove ci sono in tutto un migliaio tra migranti e profughi su 5.000 abitanti. Siamo stati a Como, dove arrivano in stazione ogni sera tra le 80 e le 90 persone respinte dalla Svizzera. Siamo stati a Milano, a Roma, sulla Tiburtina, dove c'è di fatto una tendopoli con 300 persone. Appunto adesso andiamo a Palermo e ci andiamo con Agnese Ciulla, che è assessore alla cittadinanza sociale, politiche giovanile e pari opportunità del Comune. Buongiorno, assessore. Buongiorno. Allora, qua il problema, come già accennavo prima agli ascoltatori, è questo. Per quanto riguarda gli adulti, i profughi, i richiedenti asilo o migranti adulti, la gestione del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda invece i minori non accompagnati, la gestione va in capo ai comuni. E ovviamente i comuni siciliani, dove ne arrivano tantissimi, sono quelli che hanno questo problema più forte dal punto di vista dell'accoglienza. Sono un migliaio quelli che state gestendo in questo momento, ho capito bene? Sì, intanto tengo a dire che non sono un problema i minori stranieri non accompagnati, ma è l'emergenza della migrazione come gestita che ha creato il problema. Certo, ma è a quello che ci riferiamo comunque, prego. Sì. I minori stranieri non accompagnati in questo momento in Italia si stima siano circa 10.000, 5.000 di questi sono in Sicilia, Palermo ne sta accogliendo circa 1.000. Sono ragazzi, soprattutto prevalentemente ragazzi, fra i 16 e i 17 anni, che arrivano fondamentalmente dall'Africa subsahariana, quindi Mali, Gambia, Costa d'Avorio, Nigeria, tutta questa zona sotto il Sahara. Sono ragazzi, alcuni di questi hanno diritto a, che richiedono la protezione internazionale, ma sono ragazzi che hanno diritto al permesso di soggiorno per minore età. La situazione è delicata, sì, perché il tempo migliora e va a migliorare. Palermo è città di sbarco, per cui arrivano navi militari con anche 1.000-1.300 persone. Normalmente i minori stranieri non accompagnati sono il 20% degli adulti uomini. Quando dico però, attenzione assessore, io quando dico che è un problema, dico semplicemente questo, dico avete delle strutture nelle quali mettere queste persone. A un certo punto queste strutture non bastano più inevitabilmente, no? E quindi il problema è tutto là, cioè non stiamo dicendo che è un problema in sé il fatto di avere dei minori non accompagnati, è un problema la gestione di tutto questo, immagino, per un amministratore locale. La gestione è complicata perché il Ministero dell'Interno ha predisposto una modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di primo e secondo livello. Una prima accoglienza per massimo 60 giorni con strutture ricettive anche grandi, fino a 60 posti, dove accogliere i ragazzi, aprire la tutela legale e avviare le procedure amministrative. Dopodiché una seconda accoglienza capillare e diffusa in Italia, con un massimo di 15 ragazzi per struttura. Il tema in questo momento è che non si riesce a svuotare la parte della prima accoglienza, quindi queste strutture che accolgono in prima battuta, e spostare in una seconda accoglienza. Questo sta creando una grave situazione che è legata alla qualità con cui si prendono in carico i minori, proprio perché il concetto non è di non voler accogliere i minori, anzi il Comune di Palermo in questi anni attraverso la Carta di Palermo ha avviato anche una provocazione che è quella di eliminiamo il permesso di soggiorno, che è uno strumento di schiavitù, e forse invece ragionare su una qualità migliore di accoglienza che nel tempo garantirà indubbiamente sicurezza e migliore condivisione ai livelli locali. Perché il rischio assessore è che queste persone, questi ragazzi, a volte anche bambini, vengano messi in strutture nelle quali finiscono per sostanzialmente ammassarsi perché non ci sono gli spazi, no? Il tema è proprio questo: l'accoglienza diffusa permetterebbe dei progetti migliori per i ragazzi e per la comunità locale. Quindi l'ammassamento, come lo definisce lei, può creare un'attesa che diventa snervante sia per chi accoglie che per chi è accolto. Aspettare 6 mesi per avere un colloquio, aspettare 6 mesi per riuscire ad avere il passaporto, diventa difficile poi da gestire, perché sono ragazzi che hanno una volontà e una forza di avviare delle cose che potrebbero naturalmente integrarsi nel tessuto locale e dare anche forse una marcia in più all'Italia. Sì. Assessore, in 20 secondi, la soluzione che intravede lei è una gestione dell'accoglienza dei minori simile a quella che avviene per, come dire, migranti e profughi adulti? La conferenza Stato-Regioni ha stabilito delle quote regionali per gli adulti. Sarebbe opportuno fare la stessa cosa per i minori stranieri non accompagnati, fermo restando che i comuni di sbarco, quindi Augusta, Pozzallo, Messina, Trapani, sì, Palermo, accogliamo e predisponiamo tutta la primissima accoglienza. Ma la seconda accoglienza deve essere diffusa in Italia anche per i minori stranieri non accompagnati con le quote regionali. La ringrazio, grazie Agnese Ciulla, assessore alla cittadinanza sociale, politica giovanile e pari opportunità del Comune di Palermo, per essere stata con noi. Noi adesso ci fermiamo, c'è Mario Platero, come sapete la puntata di lunedì è un po' diversa, c'è Mario Platero, ci risentiamo alla fine di America 24 per i saluti, poi ci sarà autotrasporti come sempre.